Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Il pranzo di Babette di Karen Blixen, traduzione di Paola Oietti. Misericordia e verità si sono incontrate, amici miei, disse il generale. Rettitudine e felicità debbono baciarsi. Parlava con una voce limpida, che s'era allenata nei maneggi e aveva echeggiato dolcemente nei saloni reali. Eppure parlava in un modo tanto nuovo a lui stesso e tanto stranamente commovente che dopo il primo periodo dovette fare una pausa. Era uso formulare i suoi discorsi con cura, consapevole del loro scopo, ma qua, in mezzo alla semplice congregazione del decano, era come se tutta la figura del generale, col petto coperto di decorazioni, fosse soltanto il portavoce di un messaggio che doveva essere propagato. «L'uomo, amici miei, disse il generale, è fragile e stolto. A tutti noi è stato detto che la grazia ha da essere cercata nell'universo, ma tanta è la nostra umana stoltezza e imprevidenza che immaginiamo che la grazia divina abbia dei limiti e perciò tremiamo». Il generale non aveva mai prima di allora dichiarato di tremare. Era sinceramente sorpreso e perfino scandalizzato udendo la propria voce proclamare quelle cose. «Noi tremiamo prima di scegliere la nostra strada nella vita». E dopo averla scelta, tremiamo nuovamente nel timore di aver scelto quella sbagliata. Ma viene il giorno in cui i nostri occhi sono aperti e vediamo e capiamo che la grazia è infinita. La grazia, amici miei, ci chiede soltanto di aspettarla con fiducia e di accoglierla con riconoscenza. La grazia, fratelli, non pone condizioni e non preferisce uno di noi piuttosto di un altro. La grazia ci stringe tutti al suo petto e proclama un'amnistia generale. Ecco, ciò che abbiamo scelto ci è dato, eppure, allo stesso tempo, ci è accordato ciò che abbiamo rifiutato. Anzi, ciò che abbiamo respinto è versato su noi con abbondanza, perché misericordia e verità si sono incontrate e rettitudine e felicità si sono baciate. I fratelli e le sorelle non avevano ben capito il discorso del generale, ma la sua espressione raccolta e ispirata e il suono di parole note e amate avevano toccato e commosso tutti i cuori. Così, dopo 31 anni, il generale Löwenhielm era riuscito a dominare la conversazione alla mensa del decano. Niente di ciò che accadde più tardi nella serata può essere riferito qua in modo preciso. Nessuno degli ospiti ne serbò poi un chiaro ricordo. Sapevano soltanto che le stanze erano state colme di luce celeste, come se innumerevoli piccoli aloni si fossero mischiati in un'unica e radiosa luce di gloria. Vecchi taciturni ricevettero il dono della lingua. Orecchi che per tanti anni erano stati quasi sordi si aprirono per ascoltarla. Il tempo stesso si era diluito nell'eternità. Molto dopo la mezzanotte, le finestre di quella casa brillavano come oro e canti dorati ne sgorgavano fuori nell'aria invernale. Le due vecchie che una volta s'erano calunniate, ora, in cuor loro, riandavano verso un lontano passato, oltre l'epoca malvagia in cui erano state ferite, ai giorni della loro prima adolescenza, quando insieme si erano preparate alla cresima e mano nella mano avevano colmato dei loro canti le strade intorno a Berlevaghe. Un fratello della congregazione dette a un altro un colpo nelle costole, come una rude carezza tra ragazzi, e gridò: «Mi hai truffato con quel legname, vecchio manigoldo!» Il fratello, così apostrofato, era crollato in un celestiale scoppio di risa, mentre dai suoi occhi scorrevano lacrime. «Sì, è vero, amato fratello», rispose. «È vero». Il capitano Halvorsen e la signora Oppengarden si trovarono improvvisamente vicini in un angolo e si scambiarono quel lungo, lungo bacio per il quale non avevano mai trovato tempo durante il segreto, titubante amore della loro gioventù. Il gregge del vecchio decano era formato da gente umile. Quando, più avanti nella vita, ripensarono a quella serata, a nessuno passò mai per la mente di essere stato esaltato per il proprio merito. Compresero che la grazia infinita di cui aveva parlato il generale era stata loro assegnata e non se ne stupirono nemmeno, perché era stato il compimento di una speranza sempre viva. Le vane illusioni di questa terra si erano dissolte come fumo davanti ai loro occhi e avevano veduto l'universo come realmente è. Era stata loro accordata un'ora del millennio. La vecchia signora Levenhelm fu la prima ad andar via. Suo nipote l'accompagnò e le padrone di casa fecero loro lume fino alla porta. Mentre Filippa aiutava la vecchia signora ad avvolgersi in scialli e pellicce, il generale afferrò la mano di Martina e la tenne stretta a lungo, senza fiatare. Alla fine disse: «Ho trascorso con voi ogni giorno della mia vita. Sapete, non è vero, che è stato così?» «Sì», disse Martina, «so che è stato così». «E», proseguì, «starò con voi ogni giorno che m'è lasciato da vivere. Ogni sera mi siederò, se non nella carne, che non significa nulla, nello spirito, che è tutto, per pranzare con voi, come stasera. Perché stasera, cara sorella, ho imparato che in questo mondo qualsiasi cosa è possibile». «Sì, è così, caro fratello», disse Martina. «In questo mondo qualsiasi cosa è possibile». E su questo si lasciarono. Quando alla fine la compagnia si sciolse, non nevicava più. La città e le montagne erano immerse in uno splendore bianco che nulla aveva di terreno e il cielo era illuminato da migliaia di stelle. In strada la neve era così alta che si stentava a camminare. Gli ospiti della Casa Gialla ondeggiavano, barcollavano, cadevano bruscamente a sedere o a faccia avanti e carponi ed erano coperti di neve come se i loro peccati fossero stati davvero lavati e in questo riconquistato aspetto di innocenza saltellavano come agnellini. Per ognuno di loro era una grande felicità essere diventati come bambini ed era anche uno spasso benedetto osservare vecchi fratelli e vecchie sorelle che si erano sempre presi tanto sul serio, travolti da questa celestiale seconda infanzia. Inciampavano e si rialzavano, proseguivano o restavano immobili, tenendosi per mano fisicamente quanto spiritualmente, eseguendo a momenti la gran catena di una beata danza di lancieri. «Dio vi benedica! Dio vi benedica! Dio vi benedica!» echeggiava da ogni parte come un eco dell'armonia delle sfere. Martina e Filippa rimasero a lungo sui gradini di pietra fuori di casa. Non sentivano il freddo. «Le stelle sono venute più vicine», disse Filippa. «Verranno più vicine ogni notte», disse Martina serenamente. «Probabilmente non nevicherà mai più». In questo però sbagliava. Un'ora dopo riprese a nevicare e una nevicata così pesante non era mai stata vista a Berlevag. La mattina dopo la gente stentò ad aprire la porta contro quegli alti mucchi di neve. Le finestre delle case erano imbottite da uno strato così spesso di neve che, come si raccontò per tanti anni ancora, molti buoni abitanti di quel paese non si accorsero che era sorto il giorno e seguitarono a dormire fino al tardo pomeriggio. Chiusa la porta di casa, Martina e Filippa si ricordarono di Babette. Una piccola ondata di tenerezza e di compassione le inondò. Soltanto Babette non aveva spartito la felicità della serata. Allora andarono in cucina e Martina disse: «È stato un ottimo pranzo, Babette!» Il loro cuore si colmò improvvisamente di riconoscenza. Si resero conto che nessuno dei loro ospiti aveva detto una parola sul cibo. Anzi, per quanto si sforzassero, loro stesse non riuscivano a ricordare una sola delle pietanze che erano state servite. Martina ripensò alla tartaruga. Non era apparsa affatto e ora sembrava molto vaga e lontana. Era veramente possibile che fosse stata soltanto un incubo? Babette si mise a sedere sul ceppo, circondata da pentole e padelle nere e unte, tante quante le sue padrone non ne avevano mai viste in vita loro. Era pallida e mortalmente sfinita, come la sera in cui era apparsa per la prima volta ed era svenuta sulla soglia della loro casa. Dopo un pezzo le guardò fisso e disse: «Una volta ero cuoca al Café Anglais». Martina ripeté: «L'hanno pensato tutti che era un ottimo pranzo». E siccome Babette non rispondeva, soggiunse: «Ricorderemo tutti questa serata quando voi sarete tornata a Parigi, Babette». «Non torno a Parigi». «Non tornate a Parigi?» esclamò Martina. «No», disse Babette. «Che farei a Parigi? Sono andati tutti. Li ho persi tutti, madame». Il pensiero delle sorelle andò a Monsieur Ersan e a suo figlio e dissero: «Oh, povera Babette!» «Sì, sono andati tutti. Il duca di Morny, il duca di Decazes, il principe Narischkin, il generale Gallifet, Aurélien Scholl, Paul Daru, la principessa Paolina, tutti». Gli strani nomi e titoli di persone perdute per Babette confusero un po' le due signorine, ma in quell'annuncio c'era una così sconfinata prospettiva di tragedia che nel loro animo aperto alla comprensione umana soffrirono delle perdite di lei come fossero loro e gli occhi si riempirono di lacrime. Alla fine di un altro lungo silenzio, Babette fece all'improvviso un sorrisetto e disse: «E come potrei tornare a Parigi, madame? Io non ho denaro». «Non avete denaro?» gridarono le sorelle con una bocca sola. «No, ma i 10.000 franchi?» chiesero le sorelle ansimando inorridite. «I 10.000 franchi sono stati spesi, madame». Le sorelle si misero a sedere. Per un intero minuto non riuscirono a parlare. «Ma 10.000 franchi?» sussurrò lentamente Martina. «Che volete, madame?» disse Babette con grande dignità. «Un pranzo per 12 al Café Anglais costerebbe 10.000 franchi. Le signorine non trovavano ancora una parola da dire. Quella notizia era incomprensibile per loro, ma quella sera tante cose erano state in un modo o nell'altro al di là di ogni comprensione. Martina ricordò una storiella raccontata da un amico del loro genitore che era stato un missionario in Africa. Questi aveva salvato la vita alla moglie prediletta di un vecchio capo e per mostrargli la sua riconoscenza il capo lo aveva invitato a un ricco pasto. Soltanto molto tempo dopo il missionario seppe dal proprio servo negro che la pietanza che egli aveva spartito era un nipotino grasso del capo cucinato in onore del grande medico cristiano. Martina rabbrividì. Ma a Filippa il cuore si struggeva in petto. Le sembrava che una serata indimenticabile si concludesse con una indimenticabile prova di fedeltà e di abnegazione umane. «Cara Babette», disse con dolcezza, «non dovevate dar via tutto quanto avevate per noi». Babette avvolse le sue padrone in uno sguardo profondo, in uno strano sguardo. Non v'era in fondo ad esso pietà e forse anche scherno? «Per voi», replicò. «No, per me». Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle, ritta. «Io sono una grande artista». Aspettò un momento, poi ripeté: «Sono una grande artista, madame». Poi, per un pezzo, vi fu in cucina un profondo silenzio. Allora Martina disse: «E adesso sarete povera per tutta la vita, Babette?» «Povera?» Sorrise come a se stessa. «No, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista. Un grande artista, madame, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla». Mentre la sorella maggiore non trovava altro da dire, nel cuore di Filippa vibrarono corde profonde, dimenticate. Perché aveva udito parlare molto tempo prima del caffè anglais, aveva udito pronunciare molto tempo prima i nomi del tragico elenco di Babette. Si alzò e fece un passo verso la serva. «Ma tutte le persone che avete ricordato, quei principi, quei gran signori di Francia che avete nominato voi, Babette, voi stessa avete combattuto contro di loro. Eravate una communard. Il generale che avete nominato ha fatto fucilare vostro marito e vostro figlio. Come potete piangerli?» Gli occhi scuri di Babette incontrarono gli occhi di Filippa. «Sì», disse, «ero una communard. Grazie a Dio, ero una communard. E tutte le persone che ho nominato, madame, erano malvagie e crudeli. Hanno fatto morire di fame il popolo di Parigi. Hanno oppresso i poveri e li hanno trattati ingiustamente. Grazie a Dio, sono stata su una barricata e ho caricato il fucile per i miei compagni. Ma tuttavia, madame, non tornerò a Parigi ora che le persone di cui ho parlato non ci sono più». Rimase immobile, smarrita nel ricordo. «Perché, madame», disse alla fine, «questa gente mi apparteneva, era mia. Era stata allevata e allenata con una spesa molto maggiore di quella che loro, signorinelle mie, potranno mai immaginare o credere a capire quale grande artista sono io. Io potevo renderla felice. Quando facevo del mio meglio, riuscivo a renderla perfettamente felice». Si fermò un momento. «È stato così anche per Monsieur Papin», disse. Per Monsieur Papin? Chiese Filippa. Sì, per il suo Monsieur Papin, povera signorina mia. Me l'ha detto lui stesso. È terribile e insopportabile essere un artista, diceva. Essere incoraggiato a fare, essere applaudito per aver fatto meno del mio meglio, diceva. Per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista. Consentitemi di fare il meglio che posso. Filippa andò da Babette e la strinse fra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro al proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un po' non poté parlare. Poi sussurrò: eppure non è la fine. Sento, Babette, che questa non è la fine. In paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste. Oh, soggiunse, e le lacrime le grondavano giù per le guance. Oh, come incanterete gli angeli! Anna Bonaiuto ha letto Il pranzo di Babette di Karen Blixen. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.